Salutone a tutti e tutti da Radio Wombat, che potete ascoltare in streaming su wombat.noblogs.org. E quindi una nuova puntata di Passaggio a Nord-Ovest. I fatti accadono nel quadrante nord-ovest di Firenze, raccontati da chi nei quartieri ci vive e ci lavora. Passaggio a Nord-Ovest lo ascoltate in diretta il lunedì alle 13.30 e in replica dal martedì al venerdì sempre alle 13.30. Potete inoltre riascoltare o scaricare il podcast andando sempre su wombat.noblogs.org. E dal menu podcast scorrere l'elenco delle trasmissioni fino a Passaggio a Nord-Ovest. In questa puntata intervistiamo Sandro del gruppo Casa Campi, una situazione di base che opera prevalentemente nel territorio campigiano, e proprio per questo la prima domanda che gli facciamo è: perché il gruppo Casa Campi? Sappiamo di sfratti e sgomberi in numero considerevole nella grande città, nell'area comunale di Firenze, ma evidentemente anche nei comuni limitrofi dell'area metropolitana, della periferia sostanzialmente, il problema casa comincia a farsi pesante. Campi perché è uno dei comuni con forte emergenza abitativa, famiglie che perdono il lavoro, famiglie con redditi medio-bassi, famiglie di immigrati e una situazione dunque di sfratti, prevalentemente per morosità, che ci ha messo non solo io ma anche gli altri compagni con cui poi si è deciso di formare questo gruppo ASA, come gruppo innanzitutto per impedire che la gente rimanesse per strada, e poi da lì abbiamo cercato di ragionare: il diritto alla casa, chi perde il lavoro perde anche la casa, e dunque non è accettabile che a fronte di centinaia e centinaia di alloggi privati vuoti le persone debbano rimanere per strada o comunque costrette alla coabitazione e a situazioni veramente inaccettabili. Allora abbiamo cominciato innanzitutto a partecipare ai presidi antisfratto, cioè li abbiamo organizzati noi. Ricordiamo che parliamo di comuni da 15.000 a 40.000 abitanti, e quindi ci puoi quantificare proprio dal punto di vista numerico quanti sono gli sfratti, quanti sono per morosità, chi è interessato da questi sfratti? Negli ultimi tempi gli sfratti, parlo nell'arco dell'ultimo anno, anno e mezzo, gli sfratti per morosità sono circa una cinquantina. Nel comune di Campi Bisenzio, che è un comune di 45.000 abitanti. E questo significa quindi circa 50 famiglie che tuttora hanno la procedura dello sfratto aperta, a fronte di una graduatoria per le case popolari di 250 famiglie. A Campi ci sono 600 alloggi popolari, ora come ora ci saranno una ventina di case popolari vuote che dovrebbero essere assegnate all'ultima graduatoria che è uscita alla fine del 2016. Ma voi capite lo squilibrio: 250 famiglie e ci saranno una ventina di alloggi popolari a andar bene. Mentre gli alloggi privati vuoti sono oltre 700, e questo è un dato chiaramente che denota una contraddizione di fondo. Quindi un'emergenza sempre più accentuata, e infatti da quando il gruppo ASA si è formato sono stati diversi gli sfratti difesi, quasi tutti per morosità. Ecco, Come si sono conclusi? Come si sono risvolti questi sfratti che avete difeso? Dal 2012, quando abbiamo iniziato a operare, all'inizio in 3, 4, 5 persone, coinvolgendo poi le persone direttamente interessate, perché vorrebbe essere una forma anche di auto-organizzazione. Praticamente noi abbiamo seguito tra le 50 e le 60 famiglie e diciamo messe per strada quando noi siamo intervenuti, diciamo abbiamo sempre evitato l'umiliazione dell'essere messi per strada. La cosa che abbiamo ottenuto maggiormente sono le proroghe degli sfratti e in alcune situazioni abbiamo anche consentito per questa via di trovare delle soluzioni. Poche le soluzioni pubbliche, forse un qualcosina nel 2012-2013, però già dal 2014-2015 le soluzioni pubbliche in termini di alloggi di emergenza, case popolari o alloggi privati però reperiti dal comune sempre meno, fino ad arrivare praticamente allo zero. Quindi sostanzialmente il gruppo Casa Campi con l'autoorganizzazione dal basso riesce a risolvere i problemi, diciamo, relativi al bisogno di casa, in questo caso alla mancanza, ecco, diciamo, di casa, più di quello che dovrebbe essere deputato a risolvere, cioè dell'amministrazione comunale. Ecco, com'è il rapporto quindi con l'amministrazione comunale, con gli amministratori da questo punto di vista? È un rapporto sicuramente conflittuale. Perché? Non per principio, ma perché il comune abdica sempre di più ad un ruolo pubblico e quando c'è un problema sociale, il ruolo pubblico deve stare dalla parte del più debole, deve trovare delle soluzioni, deve prevedere delle risorse adeguate, innanzitutto per prevenire che una famiglia diventi morosa, quindi il sostegno sociale ed economico. Le risorse sono poche, le case popolari ancora meno, gli alloggi d'emergenza dove dovrebbero andare le famiglie che escono dagli sfratti sono pochissime, attualmente ce n'è solo una, un solo alloggio d'emergenza libero, le altre alloggi d'emergenza sono una decina, sono tutti occupati e le famiglie non sono in grado di lasciarli perché non hanno altre soluzioni. Quindi il ruolo del comune in questi anni è sempre stato sempre meno pubblico, ecco, praticamente di molti discorsi, però pochissime soluzioni. Tra l'altro il comune ci dovrebbe ringraziare con 100 mani perché con il nostro intervento che ha rinviato tantissimi sfratti, praticamente il comune non ha dovuto provvedere a sistemare famiglie dove ci sono minori in strutture apposite, che è una cosa barbara perché andare in una struttura innanzitutto vuol dire dividere una famiglia, solo i minori con la madre e il padre quando c'è si arrangia, dorme in macchina, va dagli amici, si spacca la famiglia. Questo anche per insomma, tutta la retorica sulla famiglia che viene fatta, le prime cose che le assistenti sociali dicono alle famiglie, ma te c'è nessuno sul territorio, il babbo, la mamma, il fratello, il marito, la moglie, anche se separati, vai da loro, arrangiatevi così, cioè ai nostri concittadini che provengono da altri paesi, quindi non chiamiamoli stranieri, chiamiamoli concittadini che provengono da altri paesi, gli viene detto potresti tornare al tuo paese. Ora, ad esempio, siamo d'estate, potresti mandare la moglie con i figli al tuo paese e dunque un problema in meno. Sì, è una cosa veramente inaccettabile, quindi nessun diritto vero per dare ad una famiglia un elemento di coesione e di stabilità, ma un familismo veramente brutto. Vai dal babbo, vai dalla mamma, arrangiati. E allora un pezzo musicale che abbiamo scelto insieme a Sandro, si tratta di House of the Rising Sun, interpretata dagli Animals. In questo caso il pezzo è tratto dalla colonna sonora del film I 100 Passi. There is a house children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. Animals, House of the Rising Sun. Riprendiamo le interviste, quindi sì, senza voler personalizzare, ma ci sono sfratti, degli esempi significativi, insomma, e nella sua drammaticità possono essere rappresentativi della generalità dei problemi che si trova ad affrontare lo sfrattato. Ci sono tante cose che rendono gli sfratti per morosità molto simili tra di loro: la perdita del lavoro, l'impossibilità di pagare l'affitto, e dunque passa un anno e mezzo e arriva lo sfratto. Diciamo, lo sfratto, ci sono delle situazioni tra l'altro che si protraggono da 2-3 anni senza nessuna soluzione, famiglie che rimangono separate, famiglie che si arrangiano, famiglie che stanno ospiti di amici, parenti, con tutta una serie di difficoltà. C'è stato uno sfratto che in particolare ha impegnato il gruppo Casa, una famiglia con 3 figli, perdita del lavoro, forte abbassamento del reddito, la controparte, la proprietà, una banca, che non ha esitato al secondo rinvio di sfratto a far venire il battaglione dei carabinieri, ovvero più di 20 carabinieri per sfrattare una famiglia di 5 persone. Lì avemmo la capacità, facendo una trattativa in extremis, di impedire quel giorno lo sfratto e poi di conquistarci del tempo che è stato necessario per quella famiglia per trovare una soluzione dignitosa. Soluzione improprio, perché si è trovato la casa da sé. La cosa che ancora non siamo riusciti a fare e a conquistare dei risultati è quello di rendere disponibile il patrimonio edilizio sfitto. Renderlo disponibile, io dico, con le buone o con le cattive. Quindi, ecco, questi esempi sono una risposta sostanzialmente a chi pensa il problema casa uno se lo vada a cercare, anche che ha un reddito normale, tra virgolette, chiaramente. Nel momento in cui perdi il lavoro, e il lavoro viene perso sempre più spesso, si può trovare una situazione del genere, con affitti alti, redditi precari e via dicendo. Sì, è vero, una delle parole d'ordine che abbiamo sempre, diciamo, diffuso è questa: chi perde il lavoro perde anche la casa. Praticamente è facile passare da una situazione relativamente tranquilla in cui i conti tornano fino alla fine del mese, anche se in modo preciso, se perdi il lavoro o se subentra un problema nuovo, un problema negativo, tipo una malattia, tipo varie questioni, l'assistenza di una persona anziana. Allora, anche chi sta comprandosela la casa con i mutui rischia di perdere la casa perché non paghi il mutuo e le banche, da questo punto di vista, nonostante tutti i discorsi che ci fanno, prima o poi vogliono essere pagate. A Campi Bisenzio ci sono quasi 400 alloggi nuovi, costruiti e non venduti. Questi alloggi, molti, non sono più dell'impresa edile che li ha costruiti e poi non è riuscita a venderli. Sono tornati alle banche, perché le banche hanno dato i soldi alle imprese per costruire questi alloggi non vengono venduti, il costruttore non c'ha i soldi per pagare il mutuo alle banche e dunque le banche hanno tantissimi di questi alloggi e poi sono quelli che recuperano da chi non, tipo una famiglia, non ce la fa a pagare il mutuo. E quindi quello che stai dicendo, quella che è la realtà, contraddice quello che sostiene l'informazione mainstream, e cioè che il proprietario della casa che intima lo sfratto lo fa molto spesso perché a sua volta ha problemi di alloggio. I proprietari di casa, insomma, non sono nella condizione di aver bisogno di quella casa, ma sono chi sugli affitti ci guadagna. Allora, di situazioni dove c'era il proprietario che aveva necessità della casa o aveva necessità di avere un introito certo da quell'affitto, il che non vuol dire poi specularci, noi ne abbiamo trovati pochissimi, solo alcuni casi dove abbiamo verificato effettivamente una situazione difficile, ma solo pochissimi casi. Per lo più sono situazioni di proprietari che magari non hanno tanti alloggi, che però, insomma, non è che se non prendono quell'affitto vanno in fallimento. Chiaramente è una perdita economica, però l'anello debole in queste vicende, salvo proprio pochissimi casi che li potrei contare sulle dita di una mano, la maggior parte dei casi l'anello debole è sempre l'inquilino. Teniamo conto che questo problema della casa viene un po' banalizzato da tanti, ma anche dalle forze politiche di governo, perché si dice che l'80% delle famiglie ha la casa in proprietà, il che è vero, anche se molte di queste devono pagarsela con i mutui e sono a rischio. Solo il 20% è in affitto. E questa cosa la diano come dire: sì, il problema casa va bene, ma insomma. È un problema che riguarda una minoranza. A parte il 20% di un comune di 45.000 abitanti, intanto sono 9.000 persone. Ora non è che tutto il 20% c'ha lo sfratto, però di questo 20% c'è una parte che ha la difficoltà a pagare l'affitto, c'è tutte le persone che sono in graduatoria per una casa popolare, ci sono tutte le persone che sono nelle graduatorie per ottenere il contributo conto affitto e sono un altro centinaio di famiglie, quindi c'è tutto uno strato sociale di persone che per vari motivi non sono riusciti a comprarsi una casa. Oggi è praticamente impossibile riuscire a comprarsi una casa se non hai già qualcosa da vendere, se non hai un tuo patrimonio, perché è difficile risparmiare per poter comprare una casa. Puoi fare un mutuo, però sei a rischio come pagare un affitto. Per cui, ecco, il tema del lavoro, il tema del diritto alla casa, che è un tema basilare, il tema di un maggiore ruolo pubblico nel settore casa è un tema d'attualità, però qui viviamo in un paese in cui chi fa da padrona è il mercato, la legge del mercato, la casa popolare viene vissuta come una sorta di tessera di povertà, non si concepisce la casa pubblica come un intervento pubblico dello Stato per calmierare il mercato e per dare una risposta innanzitutto a chi non ha le risorse per stare sul mercato. Però quello che ti viene detto dice sì, ora stai un po' nell'alloggio d'emergenza, ma appena stai un po' meglio devi farcela da te a stare sul mercato e quindi a sottostare a una logica speculativa, ci sarà il 4, 5, 6% di alloggi pubblici in Italia, il resto è tutto in balia alle logiche speculative. Ringraziamo Sandro e questa è la prima parte dell'intervista al gruppo Casa Campi su Passaggio a Nord-Ovest. La potete riascoltare in replica dal martedì al venerdì alle 13.30 oppure tramite podcast che potete anche scaricare e riascoltarlo quando volete andando nel menu podcast di Radio Wombat e quindi nella sottosezione Passaggio a Nord-Ovest. Nella pagina del podcast ci sono chiaramente tutte le trasmissioni di Radio Wombat elencate in ordine alfabetico. Alla prossima!